spaventato. E se no acqua che ti... Pensa alle pesci di Tarrega, capito? Se non lo sapevi, vedi già tutto. Si può bere male, anche se ci sono pesci, anche i pesci ti portano a prendere. Anche le barche dei pescatori. Tutto, barche dei pescatori, pesci, tutto quello che gli capita a vivo. Dovrei controllare le stazionarie qua. Sta scaldando la batteria. Controllo di lei. Le stazionarie. Io non vedo problemi. Anzi, è passato un aereo, è passato. Adesso faremo un po' le tanto qua davanti. Allora, neanche molto alto. Sì, già. Adesso prendo il rosmetro, dai. Che non lo controllo da un po', dai. Sì, è manco un aereo di quelli normali di linea. Io di qui lo copro, non li chiamo, quelli piccoli. Sta andando all'Alghero, sta andando. C'era Benigni che è venuto a fare la visita di controllo. Così questa volta se ne va in mutande, altro che con le lenzuola. Ehi, arrivo subito, lì. Passa 27, dai. Ehi, va bene.